Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. A nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, degli articoli 1, 2 e 3 del testo unificato delle proposte di legge numero 2352 abbinate, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali nel testo licenziato dalla Commissione. Insomma, come sentite, non l'hanno presa bene le opposizioni in Parlamento, o meglio, diciamo, Movimento 5 Stelle e MDP non hanno preso bene la decisione del governo di porre la fiducia sulla legge elettorale, sul cosiddetto Rosatellum bis, che si comincerà a votare tra domani e entro la fine della settimana dovrebbe esserci il voto finale. Quindi è stata posta la fiducia e Movimento 5 Stelle e MDP parlano di eversione, e una sorta di eversione, di secessione, di atto contro la Costituzione parrebbe essere forse in corso in Spagna, nel senso che c'è stato il discorso molto atteso fino a un'oretta fa, un'ora e mezza fa, del presidente catalano Puigdemont, il quale all'inizio, insomma, ha raccontato una serie di cose, dopodiché a un certo punto nella chiusura di questo discorso ha annunciato l'indipendenza della Catalogna. Subito dopo però l'ha sospesa, perché dice: no, la sospendo perché in realtà vogliamo aprire un dialogo con Madrid. Madrid, il governo centrale, non ne vuole sapere neanche per niente. Insomma, adesso capiremo che cosa succede. Quindi parleremo della politica italiana, ma poi ci collegheremo anche con la Spagna per capire che cosa adesso succederà nelle prossime ore. Sapete che lo stiamo seguendo da settimane. Poi ci occuperemo anche di un dossier sconcertante dell'organizzazione Terre des Hommes, che parla di violenze record sui minori in Italia quest'anno. E poi c'è anche questo scandalo sessuale che riguarda gli Stati Uniti, un potentissimo produttore cinematografico, tra le sue vittime ci sarebbe anche Asia Argento. Insomma, un sacco di cose da raccontarvi anche questa sera. Vi ricordo, per interagire qui Effetto Notte, per voi la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS 349-238-6666. Prima di affrontare questi temi, quindi, vi racconto in sintesi la giornata. Spagna, il presidente della Catalogna, nel suo discorso in Parlamento a Barcellona, prima annuncia l'indipendenza, poi la sospende e apre al dialogo. Per Madrid è una dichiarazione di secessione. Politica italiana, il governo pone la fiducia sulla legge elettorale, caos alla Camera in piazza, per il Movimento 5 Stelle e Sinistra è un atto eversivo. Stati Uniti, la California assediata dagli incendi, 11 morti e 100 dispersi, a rischio il vino della Napa Valley, 20.000 gli evacuati. Ergastolo a un somalo, torturava e stuprava in Libia, per la Corte d'Assise di Milano è responsabile di omicidi e violenze. La strage delle donne per mano maschile, l'ultima vittima ad Asti, accoltellata sul balcone mentre tentava di fuggire al marito. Il dossier di Terre des Hommes, nel 2016 il record di violenze sui minori in Italia, 6 su 10 sono bambine. Brasile, l'autodifesa di Cesare Battisti, non fuggivo, dice l'ex terrorista, è stata un'imboscata della polizia, è illegale mandarmi in Italia. Lo scandalo Hollywood si allunga, la serie di attrici che denunciano di aver subito molestie e violenze da parte del potente produttore Harvey Weinstein. Tra le vittime anche Asia Argento e Angelina Jolie. Indagini, crolla il mito delle impronte digitali, non sarebbero uniche. Calcio per la nazionale, l'ombra di Conte sulla panchina di Ventura. Partiamo quindi dalla Spagna. Oggi, vi dicevo, l'atteso discorso del presidente catalano Puigdemont al Parlamento di Barcellona. Al termine di questo intervento ha prima proclamato l'indipendenza della Catalogna e l'ha poi sospesa per aprire a un dialogo con Madrid. Ma il governo spagnolo ha respinto la tacita dichiarazione di indipendenza del presidente catalano, che ha lasciato appunto aperta la strada per la secessione. È inaccettabile fare una tacita dichiarazione di indipendenza per poi sospenderla in una maniera esplicita, così ha detto un portavoce del governo centrale. Poi cercheremo di chiarire meglio collegandoci appunto con con la Spagna. Per quanto riguarda la politica italiana, il governo ha posto la fiducia alla Camera sulla riforma della legge elettorale, tensione in aula come avete sentito all'inizio, insulti del Movimento 5 Stelle alla Presidente della Camera Boldrini, Di Maio denuncia un'emergenza democratica e convoca una manifestazione per domani, quando scenderà in piazza anche la sinistra al Pantheon, MDP parla di eversione, annuncia il no. Voto contrario anche del democratico Meloni, mentre Lega e Forza Italia voteranno solo la legge, non voteranno la fiducia ma voteranno la legge perché dicono comprendono le ragioni del governo. Il presidente della Repubblica Mattarella giudica positivo l'impegno per giungere a una nuova legge elettorale, dice auspicando un ampio consenso. E anche di questo ci occuperemo nel corso di Effetto Notte. Per quanto riguarda la politica, tra l'altro, l'aula di Palazzo Madama ha approvato con 123 sì, 25 no e 68 astenuti l'articolo 5 della legge europea che prevede l'aggravante della minimizzazione di un crimine come quello della Shoah. L'aggravante è inserita nella legge Mancino sui reati di opinione e va ad ampliare un'altra aggravante approvata lo scorso anno che è quella del negazionismo della Shoah. E arriviamo alla manovra economica. La Commissione europea ha detto sì alla richiesta del governo di correggere i conti pubblici italiani. Nessuna obiezione da Bruxelles, quindi via libera alla flessibilità chiesta da Palazzo Chigi. L'aggiustamento strutturale del deficit pari allo 0,3% del PIL nel 2018 contro lo 0,8% previsto. Ad annunciarlo è lo stesso ministro Padoan al termine dell'Ecofin. C'è stato un riconoscimento del fatto che il governo italiano ha inviato in una lettera che nota questa decisione. La Commissione ha risposto di aver ricevuto questa richiesta e non ha obiettato. Il ministro mette poi un freno al giro di vite annunciato dalla BCE sulle sofferenze bancarie. Se c'è un paese interessato a una riduzione più rapida e sostenibile delle sofferenze è l'Italia, ma non bisogna avere fretta, il rischio è di svendere, dice Padoan. Altro tema sul tavolo dei ministri delle finanze riuniti a Lussemburgo, la tassazione dell'economia digitale, su cui la Commissione sta lavorando. Varie le ipotesi allo studio. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora il caso Ilva, arrivano da Mittal rassicurazioni. Il giorno dopo lo sciopero dei lavoratori dell'Ilva e l'annullamento del tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, i nuovi acquirenti delle acciaierie, il gruppo ArcelorMittal, guardano al futuro e da Cernobbio l'amministratore delegato di Mittal Europa, Aditi a Mittal, spiega che l'azienda negli ultimi anni ha sofferto moltissimo, ma il nuovo progetto è di lungo periodo. È una sfida non facile da cogliere, ma come è già stato detto, sono giovane e sono qui proprio per rimanere nel lungo termine e per portare avanti questo con successo nel lungo termine. A Taranto lavoratori e sindacati dicono no a soluzioni con logiche di possibili scambi, soprattutto su occupazione e risanamento ambientale. Si attende una risposta sul futuro del tavolo, come spiega il segretario generale della FIM CISL, Marco Bentivogli. Importante avere una risposta certa sulla possibilità di riavviare la trattativa dal punto in cui l'avevamo lasciata a fine luglio. Se l'azienda in un momento così difficile inizia a camminare all'indietro come un gambero, una trattativa difficile diventa impossibile. E il viceministro allo sviluppo economico, Teresa Bellanova, invita l'azienda a tornare al tavolo con il piede giusto. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. A proposito di regioni, invece eletto lo scorso 10 marzo, il presidente della regione Val d'Aosta, Pierluigi Marchis, ha rassegnato le dimissioni. La decisione giunge dopo l'avviso di garanzia ricevuto nell'ambito dell'inchiesta sul ritrovamento di 25.000 euro nell'ufficio di presidenza. E invece in Lombardia il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, provincia di Milano, ha approvato con i soli voti contrari del PD la decadenza della concessione del diritto di superficie sull'area di Via Luini per la realizzazione di quella che era stata ribattezzata la più grande moschea d'Italia. L'amministrazione ha preso atto di una serie di gravi e ripetuti inadempimenti da parte del Centro Culturale Islamico rispetto agli impegni previsti nelle convenzioni del 2013 e del 2015. E ora negli Stati Uniti, dove si aggrava il bilancio dell'ondata di incendi che sta devastando il nord della California, le vittime accertate sono 11, ma le autorità parlano di almeno 100 dispersi. Gli evacuati sono oltre 20.000, soprattutto nella regione della Napa Valley, dove si registrano i focolai più imponenti e dove le fiamme stanno distruggendo vaste aree di vigneti. Oltre 1.500 tra case e aziende sono andate in fumo. E poi questo scandalo che viene da Hollywood si allunga alla serie di attrici che denunciano di aver subito molestie e violenze. da parte del potente produttore Harvey Weinstein. Tra le vittime anche Asia Argento e Angelina Jolie, di questo poi parleremo nel corso di Effetto Notte. Ora in Brasile, dove i legali di Cesare Battisti, l'ex terrorista, hanno reiterato oggi la richiesta di habeas corpus, il principio che tutela l'inviolabilità personale, alla Corte Suprema brasiliana per evitare, insomma, una possibile estradizione dell'ex terrorista in Italia. Battisti ha rilasciato un'intervista televisiva, ha detto: non stavo scappando dal Brasile quando sono stato fermato, qui sono protetto, la polizia brasiliana mi ha teso un'imboscata. E torniamo sulle notizie italiane. Torturava i migranti, un somalo è stato condannato all'ergastolo. Omicidio plurimo, sequestro di persona a scopo di estorsione e violenza sessuale sono accuse pesanti, quelle per le quali la Corte d'Assise di Milano ha condannato all'ergastolo Osman Matamud. Secondo quanto riferito da molti testimoni, il 22enne somalo era uno dei capi del campo profughi di Bani Walid in Libia. È lì che avrebbe ucciso diverse persone, il numero esatto non è stato accertato, ma anche sequestrato a scopo di estorsione centinaia di suoi connazionali e violentato decine di ragazze, torture e sevizie compiute per spingere i migranti presenti nel centro libico a pagare $7,000 per raggiungere l'Italia a bordo di barconi. A portare al suo arresto erano state le dichiarazioni di alcuni somali che lo avevano riconosciuto all'interno della stazione centrale di Milano. Lui si è sempre detto innocente, la sua difesa non ha però convinto i giudici, i quali hanno disposto anche che se Matamud dovesse uscire dal carcere grazie ad uno sconto di pena dovrà essere subito espulso dal nostro paese. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso torniamo purtroppo a parlare di femminicidi. La media non è sempre alta, molto alta in Italia. Questa volta ad Asti, dove un uomo di 46 anni di origini marocchine ha ucciso a coltellate la moglie di 42 anni. È successo in via Montebruno ad Asti, dove la coppia viveva da 10 anni. Negli ultimi mesi faceva lei la badante in ospedale, lavoro che aveva svolto anche per il presidente del consiglio comunale di Asti, Giovanni Boccia, cui aveva curato la mamma per 4 anni. Di lei dice: era una di famiglia, era molto dolce, affettuosa, le sue cure amorevoli. Aveva conosciuto il futuro marito ad Asti pochi anni prima e poi lo aveva lasciato, e poi l'errore di essere tornata con lui, che l'ha uccisa a coltellate sul balcone mentre lei cercava di sfuggirgli. C'è il commento dell'assessora alle pari opportunità della Regione Piemonte, Monica Cerutti, che dice: è una con una vena di amarezza che mi viene da constatare come stia facendo così poco clamore questo nuovo femminicidio, forse perché ci stiamo abituando all'orrore, che è una domanda questa che ci siamo posti tante volte. Ormai c'è una sorta di assuefazione pericolosissima a questa strage continua. C'è poi il dossier di Terre des Hommes, che dice che nel 2016 c'è stato in Italia un record di violenze sui minori, 6 su 10 sono bambine, anche di questo poi parleremo più tardi. Adesso parliamo di questi migranti richiedenti asilo ospitati dalla Croce Rossa Pisana nell'ex convento del Cotolengo nel comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Sono asserragliati da questa mattina all'interno della struttura per protestare contro la somministrazione del pasto. Da ore è in corso una trattativa col presidente della Croce Rossa Pisana, Antonio Cerrai, e le istituzioni locali per superare questo momento di stallo. La protesta è pacifica, si svolge senza disordini. I migranti rifiutano il cibo del catering e chiedono che al posto di questa soluzione siano loro dati soldi in contanti per acquistare cibo etnico. Una soluzione quest'ultima già adottata anche in altre strutture della Croce Rossa, ma che in questo caso, sottolinea Cerrai, non è adottabile in quanto i numeri delle presenze non lo consentono. Qui dice: ci sono 178 persone qui a San Giuliano Terme, vicino Pisa, e non è possibile che ciascuno pretenda di cucinare per se stesso. Cade il mito delle impronte digitali. Dopo essere state per circa un secolo uno dei metodi considerati più certi e affidabili nelle indagini, in realtà non esistono evidenze sufficienti per affermare che le impronte digitali siano uniche per ciascun individuo. Lo indica una fonte autorevole come l'Associazione Americana per l'Avanzamento delle Scienze nel rapporto redatto dai suoi esperti di scienze forensi. Il documento esamina le tecniche con cui vengono realizzate e confrontate, analizzate e confrontate le impronte digitali lasciate sulle superfici dai polpastrelli e composte dall'alternarsi di creste e solchi secondo precisi disegni. Quello che emerge è che non esiste un metodo univoco per associare un corredo di impronte a un unico individuo. Viene sancito in questo modo il sospetto che recentemente aveva portato a considerare le impronte digitali un metodo di identificazione non più affidabile al 100%. Pensate, si crolla anche questa certezza per quanto riguarda le indagini. Per chiudere, lo sport con l'ombra del CT Conte su Ventura dopo, diciamo, questi esiti deludenti delle partite per le qualificazioni mondiali. E poi, per quanto riguarda invece il nuoto, la lite tra Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri, con polemiche e offese di altri partecipanti via social, finisce sul tavolo della procura della Federnuoto. Lo ha comunicato il presidente della federazione Paolo Barelli, che dice che è stata aperta un'indagine per valutare eventuali responsabilità di tesserati relative a una vicenda che lede l'immagine del nuoto. Poi vedremo, insomma, se avesse anche risvolti penali, visto che la Pellegrini ha fatto anche delle denunce. A questo punto è il momento di fermarsi, di prendere un po' di respiro. Voi potete continuare a mandare i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, perché ci sentiamo dopo la viabilità. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme a Roberta Giordano con voi, le notizie poi, lo sapete, ve le ricordo man mano i fatti principali. Adesso abbiamo chiuso il riassunto della giornata e cominciamo a prendere alcune di queste notizie per approfondirle, per chiarirle insieme agli ospiti. Intanto fate vostro questo concetto di Mauro, che scrive al 349-238-6666, numero per WhatsApp ed SMS, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. Dice Mauro, che si firma Prof. Mauro: da quando ormai da mesi ho scoperto Effetto Notte, per me non esiste altro TG, è l'unico strumento culturale di informazione a 360 gradi che mi trasmette anche relax e piacere. Poi dice: condotto in modo magistrale. Quelli sono complimenti troppi, Mauro, prendete esempio, spegnete la televisione, buttatela dalla finestra, assicuratevi che non ci sia nessuno giù e ascoltate Effetto Notte, in modo che un giorno non potrete dire: io non lo sapevo, a proposito delle notizie più importanti. Allora ve le ricordo le notizie principali e poi cominciamo a parlare di politica italiana. Spagna, il presidente della Catalogna nel suo discorso al Parlamento di Barcellona, prima ha annunciato l'indipendenza, poi l'ha sospesa aprendo al dialogo. Per Madrid comunque si tratta di secessione. E poi fiducia sul Rosatellum, bagarre alla Camera, in piazza Movimento 5 Stelle e MDP sulle barricate, il Colle dice sì, va bene, se c'è ampio consenso ne parleremo tra poco. Per quanto riguarda la manovra economica, ottiene la flessibilità dalla Commissione europea, questo ritocco ai conti pubblici. L'autodifesa dell'ex terrorista Cesare Battisti dal Brasile dice: non fuggivo, in realtà sono al sicuro qui, è stata un'imboscata della polizia ed è illegale, dice, mandarmi in Italia. Sapete che l'Italia chiede da anni l'estradizione. E poi cambia l'esame di terza media per quanto riguarda la scuola. Ci sarà la prova in Valsi ad aprile per l'ammissione poi all'esame. La ministra Fedeli firma il decreto. Stop alla più grande moschea d'Italia, Sesto San Giovanni, vicino Milano. Fra i migranti sono sempre più numerosi i nuovi italiani. E poi Asia Argento accusa il produttore americano Weinstein di stupro, violentata a 21 anni, dice, si allunga quindi questa fila di attrici che stanno denunciando man mano le molestie o le violenze vere e proprie di questo potentissimo produttore hollywoodiano. Poi abbiamo parlato anche dell'ennesimo femminicidio ad Asti, una donna di 42 anni che è stata uccisa dal marito di 46 anni. E per quanto riguarda il nuoto, scontro tra Paltrinieri e Pellegrini, polemica sul premio all'allenatore Morini. A nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, degli articoli 1, 2 e 3 del testo unificato delle proposte di legge numero 2352 abbinate. Ecco, l'avete sentito già all'inizio, questa è la ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, che da parte del governo dicendo in aula alla Camera che sarà posta, che è stato deciso, è stato autorizzato dal governo la questione di fiducia sulla legge elettorale, sul cosiddetto Rosatellum bis o 2.0, insomma, qui siccome sono varie versioni man mano viene aggiornato il nome. Quindi il governo ha preso questa decisione per evitare in sintesi il rischio di franchi tiratori nell'urna, nel segreto dell'urna, cioè col voto segreto si rischiava che alcuni, anche di quelli che avevano detto che avrebbero votato sì a questo Rosatellum, invece votassero no. E quindi avete sentito il caos che è scoppiato in aula e anche fuori Montecitorio. Oggi c'erano varie manifestazioni, varie persone che protestavano, e invece in aula avete sentito i fischi soprattutto del Movimento 5 Stelle e anche di MDP, che hanno parlato di eversione. Rosato, che è il relatore di questo, di questa legge elettorale che prende in effetti il nome da lui, Rosatellum, ha detto: sottoporre il testo ai voti segreti metterebbe in difficoltà l'insieme della riforma, per noi il voto di fiducia è solo uno strumento, ci sarà poi il voto finale segreto per misurarsi sul fatto che la legge elettorale vada bene o no. Vogliamo sentirlo Rosato dalla sua viva voce? Stamattina abbiamo assunto una decisione, visti gli emendamenti e ascoltate le dichiarazioni di chi chiedeva i voti segreti, uno strumento illogico sulla legge elettorale, e quello di superare questo Vietnam che c'è in aula e di andare con correttezza e con immediatezza a votare una legge di cui questo Paese ha bisogno. Dopodiché ci confronteremo in aula democraticamente sul voto finale, ma su un testo che è frutto della mediazione tra 8 gruppi politici diversi. A pochi giorni, a poche settimane dallo scioglimento del Parlamento, perché ormai la legislatura è evidentemente finita, abbiamo bisogno di dotare il Paese di una legge elettorale e c'è bisogno che tutti i partiti conoscano presto quali sono le regole per andare a votare. Questo è l'usato del PD. Poi il Movimento 5 Stelle, avete sentito, ha protestato con Di Battista, che a un certo punto è uscito da Montecitorio, è andato in piazza per arringare la piazza, ha sbagliato però, diciamo, protesta, perché erano lì per un altro movimento di un ex generale, l'ex generale Pappalardo, quindi è stato fischiato, è stato anche, diciamo, in parte gentilmente invitato ad andarsene da quella piazza. Sentiamo un po' di rumore di quella piazza di oggi. Noi ora siamo dentro perché forse con questo qualche voto segreto facciamo saltare questa porcata. Sbagliato. Ciò nonostante, domani, lo capite? Insomma, poi si è accorto che non era la piazza giusta. Sentiamo invece che cosa ha detto poi Di Maio, vicepresidente della Camera, a proposito della legge elettorale. Credono di indebolirci, invece finiranno per rafforzarci se saremo tanti e reagiremo. Da domani iniziano i voti di fiducia in aula alla Camera, poi il voto finale sarà segreto. Più faremo pressione in piazza, più quel voto segreto potrebbe far saltare la legge. Noi dentro, voi fuori. È il momento di fermare questa vergogna pacificamente, ma come popolo. Quindi sia Movimento 5 Stelle che MDP hanno annunciato proteste in piazza. Movimento 5 Stelle domani fuori Montecitorio all'1, mentre MDP alle 17.30 al Pantheon. Insomma, Barbara Fiammeri, ciao, del Sole 24 Ore. Bentornata. Buonasera a tutti. Barbara, quindi praticamente diciamo che PD, Alternativa Popolare, Forza Italia e Lega si sono detti a un certo punto che non c'era alternativa alla fiducia per poter varare questa benedetta legge elettorale, e Forza Italia e Lega hanno detto: noi non voteremo la fiducia ma voteremo sì nel voto finale, quindi insomma l'approvazione della legge elettorale. E però bisogna capire a questo punto che cosa, quindi ci sarà un passaggio inevitabile, cioè al Senato non dovrebbero esserci problemi perché non c'è il voto segreto, no? Mentre sì, qui si tratta di 3 voti di fiducia, mi pare 2 domani e un altro giovedì se non sbaglio, e poi venerdì forse il voto finale? O giovedì o venerdì il voto finale. Diciamo che si parla di fiducia tecnica proprio perché appunto è una fiducia posta per evitare il voto segreto. Non è la prima volta che accade, non è neanche la prima volta che accade sulla legge elettorale, perché era già accaduto sull'Italicum, ma la differenza ovviamente rispetto all'Italicum è che in quel caso il voto era esclusivamente all'interno del perimetro della maggioranza sulla legge elettorale, mentre in questo caso c'è un consenso ampio. C'è un accordo ampio. Senti, però anche... Perché sulla carta sono due terzi dei parlamentari presenti alla Camera che sono favorevoli al Rosatellum, sono 440 voti su 630 deputati, quindi un consenso molto ampio, però appunto sulla carta. Perché Barbara, tra l'altro c'è per esempio Marco Meloni del Partito Democratico che ha detto non voterò la fiducia perché il governo, ponendo la fiducia sulla legge elettorale, ha compiuto un grave strappo istituzionale, dice proprio nell'imminenza delle elezioni sottrae ai cittadini anche i residui spazi consegnati dalle sentenze della Corte Costituzionale di determinare direttamente la scelta dei parlamentari. Quindi anche all'interno del PD c'è un po' di travaglio rispetto a questa legge elettorale. Sì, c'è un po' di travaglio. Ovviamente quando si ricorre alla fiducia è sempre una forzatura, su questo non c'è dubbio. Ma è altrettanto vero che in questa legislatura abbiamo assistito, direi fin dall'inizio, perché ci dobbiamo ricordare che questa legislatura inizia con il tentativo di eleggere il capo dello Stato, abbiamo avuto il 101 contro Prodi, con una serie di tentativi andati a vuoto fino alla rielezione di Giorgio Napolitano, perché appunto non si riusciva a trovare un'intesa che consentisse l'elezione del capo dello Stato. Allora, abbiamo avuto tanti cambi di casacca, non solo tra partiti, ma anche dall'opposizione alla maggioranza e poi di ritorno all'opposizione. Insomma, è stata una legislatura in cui questi cambiamenti più o meno visibili si sono ripetuti, e il rischio adesso effettivamente che sulla legge elettorale si potessero sommare quelli che sono i malumori all'interno di ciascun gruppo, perché questo deve essere chiaro, cioè in gioco ci sono anche le riconferme in Parlamento, riconferme che sono difficili, pensiamo per esempio soprattutto al Partito Democratico che ha oggi 283 deputati, anche grazie al premio di maggioranza che aveva ottenuto, previsto dalla precedente legge elettorale, dal Porcellum, che aveva avuto con il Porcellum. È chiaro che non potrà riportare, molto probabilmente, è scontato che 283 parlamentari non rientreranno in Parlamento, e quindi chi si sente già fatto fuori, insomma. Ah, tu dici che ci sono anche questi ragionamenti poco nobili? No, ma io direi che questo è soprattutto la cosa principale, perché altrimenti uno farebbe delle battaglie, come per esempio sta facendo Monaco, a viso aperto, e invece ci si nasconde dietro il voto segreto. Quindi dopodiché un voto segreto ci sarà, nel senso che il voto finale sulla riforma elettorale resta segreto, però un conto è un voto, e a quel punto, se dovesse non passare la riforma, chiaramente sarebbe un fatto enorme da un punto di vista politico, soprattutto per il Partito Democratico, che appunto è il principale gruppo in Parlamento e alla Camera in particolare. Altro è invece lo stillicidio di oltre 100 voti segreti, in cui si possono sommare appunto chi per la lista, chi perché pensa di dare un segnale, e anche il rischio che basta, come abbiamo visto nel precedente tentativo, quello, se ricordate, a giugno sul Tedeschellum, cioè che era sostanzialmente un proporzionale puro, anche lì al primo voto segreto è saltato tutto, quindi il rischio era elevato. Di qui poi a dire che hanno fatto bene a mettere la fiducia ce ne corre, ovviamente, cioè è una valutazione, ripeto, è certamente una forzatura. Però i calcoli che sono stati fatti sono questi. Beh, soprattutto perché la cosa che secondo me va sempre ricordata è che noi siamo a fine legislatura, cioè questa veramente era l'ultima finestra, anche perché si apre la sessione di bilancio per approvare la legge elettorale. Per fare una legge elettorale. Ci saremmo ritrovati comunque con appunto due sistemi completamente molto diversi tra Camera e Senato, con maggioranze difficilmente componibili all'indomani del voto. E quindi, sostanzialmente con una situazione di mentre questa sarà una legge che varrà per tutte e due le Camere. Barbara, quindi ci aggiorneremo nei prossimi giorni, vediamo questi voti di fiducia e soprattutto il voto finale. Grazie Barbara Fiammeri. Grazie a voi, buonasera. Buonasera a te. Pausa, ci prendiamo poi di nuovo insieme. Pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri messaggi, alla quale potete tra l'altro aderire senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS è 349-238-6666. La natura di prima mano vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte in questo momento, sapete dove siete, al posto giusto, nel momento giusto, e se volete anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Allora, abbiamo parlato prima molto della politica italiana, adesso ci spostiamo su quella spagnola. Vi ricordo molto velocemente i fatti principali, che sono appunto il presidente della Catalogna che nel suo discorso al Parlamento di Barcellona prima dichiara l'indipendenza, poi invece la sospende perché vuole un dialogo con Madrid. Della politica italiana abbiamo appena parlato, con il governo che pone la fiducia sulla legge elettorale, caos alla Camera, in piazza per Movimento 5 Stelle e Sinistra, è un atto eversivo. Stati Uniti, la California assediata dagli incendi, e poi questo ergastolo a un somalo che torturava e stuprava in Libia, è stato deciso dalla Corte d'Assise di Milano. La strage delle donne per mano maschile, l'ultima vittima ad Asti, una donna di 42 anni accoltellata sul balcone mentre tentava di sfuggire al marito. Il dossier di Ter des Hommes, di cui parleremo più tardi, con questo record di violenze sui minori in Italia nel 2016. E poi per quanto riguarda le indagini, crolla il mito delle impronte digitali, non sarebbero uniche, viene da una ricerca americana questa deduzione. Per il calcio, per la nazionale, l'ombra di Conte sulla panchina di Ventura. Ci colleghiamo quindi subito con Barcellona, dove c'è il nostro Mario Magarò. Ciao Mario. Ciao Roberta, buonasera. Mario, allora questo discorso è un po' di sfida, un po' di dialogo del presidente catalano Puigdemont, no? Che prima ha detto in questo atteso discorso al Parlamento di Barcellona, nella chiusura del discorso, ha annunciato l'indipendenza, poi subito dopo l'ha solennemente sospesa dicendo perché vogliamo un dialogo con Madrid. Mi sembra che Madrid non sia molto nell'ottica di... Sì, di fatto Puigdemont ha scontentato un po' tutti. In primis c'è da dire che la CUP, la candidatura d'unità popolare, il partito rappresenta l'ala estremista, l'estremismo radicale, dell'indipendentismo radicale, ha detto chiaramente di non essere soddisfatta della posizione, della decisione di Puigdemont, perché ha tradito in questo modo i 2 milioni di catalani che si erano espressi a favore della secessione attraverso il referendum. D'altro canto anche Madrid, e concretamente il governo spagnolo, ha detto chiaramente che non può accettare una dichiarazione di indipendenza, seppur sospesa, i cui effetti sono sospesi, perché questo si basa su una legge come quella del referendum, che è illegale, che è stata precedentemente sospesa dal Tribunale Costituzionale, ed è già annunciata una riunione straordinaria dei vertici del governo spagnolo, in primis col premier Mariano Rajoy. Qui a Barcellona, girando un po' per le strade dopo l'intervento di Puigdemont, alcuni sono espressi a favore della decisione del premier catalano, pur essendo indipendentisti, dicendo che è una posizione assolutamente condivisibile e che il dialogo bisogna cercarlo in questo momento. Altri si sono espressi in maniera contraria, dicendo che sono sentiti traditi da Puigdemont, ed altri evidentemente fanno parte del bando unionista, dicendo che tutto questo è illegale, è una follia, e questo non farà altro che allontanare ulteriori imprese dalla Catalogna. Quindi le prossime settimane sono decisive, però sicuramente oggi Puigdemont non ha preso una posizione definitiva. Infatti è stato un po', diciamo, un piede dentro, un piede fuori, come dicevi tu, scontentando molti e irritando ulteriormente Madrid. Dicevi delle conseguenze economiche di molte aziende, lo dicevamo anche nei giorni scorsi, che stanno spostando le sedi legali in altre parti della Spagna perché hanno paura di uscire dall'Unione Europea. Mario Magarò, come abbiamo fatto finora, ci aggiorneremo, insomma, momento per momento, giorno per giorno. Allora, grazie da Barcellona. Ciao Mario. Grazie, ciao Roberto. Ciao, buon lavoro. Ora invece ci occupiamo, vi dicevo, del rapporto sconvolgente dell'organizzazione Onlus Ter des Hommes sulle violenze contro i minori in Italia. In Italia quasi 1000 minori ogni anno sono vittime di abusi sessuali, circa 2 bambini ogni giorno. Il 2016 ha visto proprio un record delle vittime e in 6 casi su 10 si tratta di bambine. Domani, tra l'altro, la giornata mondiale delle bambine e delle ragazze. Ne voglio parlare con Paolo Ferrara, che è responsabile della campagna in difesa di Terre des Hommes. Ferrara, buonasera. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Scendiamo più nel dettaglio di questo vostro dossier davvero sconcertante, insomma, no? In un paese come il nostro. Sì, i dati che abbiamo riportato oggi offrono uno spaccato sia internazionale che nazionale. Soffermiamoci su quelli italiani che abbiamo reso oggi pubblici insieme alla Polizia di Stato. Purtroppo il 2016 è stato un anno record e non è un record che riusciamo a festeggiare con grande gioia. Si è registrato il più alto numero di reati, 5.300, a danni di minori. Come diceva lei, il 60% sono bambini o ragazze. La cosa che più sconvolge è un grande aumento dei reati all'interno del nucleo familiare o comunque a danno di bambini molto piccoli. E l'altro dato, che poi il dato che coinvolge soprattutto le ragazze e le bambine, è l'altissimo aumento della violenza sessuale aggravata, che colpiscono con oltre l'80% della frequenza proprio le bambine e le ragazze. Ce lo dicono tra l'altro i fatti di cronaca di questi ultimi giorni. La violenza ha colpito in questi giorni, o comunque è emersa in un contesto come quello sportivo di una palestra di karate in provincia di qui Lombardia, ha colpito e colpisce all'interno anche delle giovani coppie, dove la violenza spesso viene tollerata come un fatto privato, come un fatto che non deve riguardare nessun altro, ma che poi rischia di sfociare anche, come abbiamo visto, in casi di vero e proprio femminicidio. Sono dati che ci fanno riflettere, sono anche dati che evidentemente vogliamo provare a guardare in positivo. C'è forse una maggiore attenzione alla denuncia, c'è forse una maggiore attenzione anche al far emergere situazioni che forse un tempo erano nascoste. Quindi vuol dire, Paolo Ferrara, che è un numero record, è sconvolgente, ma potrebbe anche essere che in realtà ci sono sempre state, purtroppo, ma che si denuncia di più? Lo vogliamo sperare. Evidentemente non abbiamo in questo caso un'interpretazione che possa essere univoca. Oggi prendiamo atto del fatto che è un numero record. Probabilmente però il tanto lavoro in termini di sensibilizzazione ci induce anche a sperare che si tratti anche di una voglia di parlare, di una voglia di far emergere, soprattutto all'interno di quei contesti dove un tempo in realtà sembrava non dovesse far emergere nulla, come quello della famiglia, che è un posto di amore, è un posto di affetto, ma dove purtroppo sappiamo in molti casi, in alcuni casi meglio, si nasconde anche un demone che purtroppo colpisce soprattutto i più vulnerabili, i bambini o spesso e volentieri anche le donne, frutto di una cultura che tende a trasformare l'uomo nel dominus ancora di casa, o che tende a pensare al rapporto come un rapporto esclusivo oggettuale di cui l'uomo in qualche maniera si sente un po' il titolare. Già, lei ha parlato benissimo, Paolo Ferrara, di questo fenomeno. Molti ascoltatori ancora, non molti, insomma, molti negano che effettivamente ci sia e continui a esserci questo fenomeno, no? della disparità tra i sessi, e quindi di questo, lei dice, atteggiamento di dominus e di prevaricatore da parte dell'uomo in molti casi. Tra l'altro, dicevo prima, domani è la giornata mondiale delle bambine e delle ragazze. Ci sono le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'OMS, per voce di Flavia Bustreo, che è vice direttrice generale dell'OMS per la salute della famiglia, delle donne e dei bambini, e dice che nel mondo circa 120 milioni di ragazze con meno di 20 anni sono vittime di rapporti forzati o di altri atti sessuali forzati, che ogni giorno, stima l'OMS, a proposito dei matrimoni precoci, un'altra dinamica di violenza nei confronti delle ragazze e delle donne, 39.000 ragazze ogni giorno tra i 15 e i 19 anni sono costrette a sposarsi. Tra il 2011 e il 2020 saranno 140 milioni, dei numeri spaventosi che non si possono purtroppo negare. Grazie Paolo Ferrara di Terre des Hommes, grazie, buon lavoro. Grazie a voi per l'attenzione e spero che insieme riusciremo in realtà a cambiarlo, perché i numeri è in positivo. Grazie mille, lo spero davvero, almeno ne parliamo, a differenza di molti e soprattutto dei negazionisti. C'è la viabilità e poi ci occuperemo di qualcosa di non tanto diverso, ma insomma in altro ambito. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Intanto ringrazio moltissimo Cosimo da Pistoia, che dice che finalmente si rilassa a seguire Effetto Notte. Spero anche che sia rilassante, nonostante le notizie purtroppo a mio malgrado non sono spesso positive. Comunque adesso vi ricordo le principali. Abbiamo parlato della Spagna collegandoci con Barcellona per parlare del discorso del presidente della Catalogna Puigdemont, che oggi ha annunciato l'indipendenza e poi però ha detto la sospendiamo perché vogliamo un dialogo con Madrid, ma Madrid dice questa è una dichiarazione di secessione, quindi ci attrezziamo per reagire. La politica italiana, con il governo che ha deciso di porre la fiducia sulla legge elettorale, è scoppiato il caos alla Camera, come MDP e Movimento 5 Stelle, che parlano di un atto eversivo e per domani hanno annunciato delle manifestazioni di protesta. Gli Stati Uniti, la California assediata dagli incendi, e poi questo somalo condannato a Milano all'ergastolo perché torturava e stuprava tantissimi migranti in Libia. Abbiamo parlato anche del femminicidio, abbiamo parlato di questo dossier di Terre des Hommes, secondo il quale nel 2016 c'è stato un record di violenze sui minori in Italia, con 6 su 10 che sono bambine. E poi per quanto riguarda il calcio, per la nazionale, dopo le partite deludenti di questi giorni, c'è l'ombra di Conte sulla panchina di Ventura. Adesso occupiamoci di una vicenda che sta montando sempre di più negli ultimi giorni. Aveva cominciato qualcuno a denunciare molestie da parte di un potente produttore di Hollywood, che è Harvey Weinstein. E ultimamente continuano a venire fuori attrici che denunciano stupri. Asia Argento, tra le attrici italiane, che ha parlato al New Yorker di proprio una violenza subita da questo produttore quando aveva 21 anni. Le ultime a denunciarlo proprio in queste ore, Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie. Ne parliamo con la nostra Marta Cagnola. Ciao Marta. Ciao Roberta. Insomma, ha fatto praticamente un delinquente. Ma allora, intanto fa clamore perché lui è veramente ritenuto da anni uno dei più grandi produttori di Hollywood, veramente un personaggio importantissimo, premio Oscar, insomma, non uno da poco. Fondatore della sua compagnia, o cofondatore della sua compagnia, Weinstein Company, dalla quale è stato licenziato, quindi è stato licenziato quando? Dalla sua stessa società. Adesso, qualche giorno giorni fa, qualche giorno fa. Ma tra l'altro per ora si parla di presunti abusi, presunte violenze, però sono tante le attrici che stanno venendo fuori con allora, queste denunce. Tutto è nato da un'inchiesta del New Yorker, firmata peraltro da Ronan Farrow, che è il figlio di Mia Farrow, che ha sentito molte attrici, tra le quali appunto Asia Argento, che ha raccontato questo episodio. Non entriamo nei particolari, ma dice che lei non si è rifiutata per paura, perché lui era veramente davvero potente, lei aveva paura di essere annientata da lui e soprattutto dai suoi avvocati. Mettersi contro un uomo così ricco potente, e potente negli Stati Uniti non è facile. E decide della vita della morte di molte attrici, evidentemente, perché esatto, ma anche sono di molte tante persone, perché sai, magari negli Stati Uniti contro un uomo con degli avvocati davvero importanti può far decidere la giustizia che ha ragione lui, ecco. Tra l'altro lei aveva in realtà già raccontato in qualche modo questa vicenda. Asia Argento. Sì, perché si ritrova una scena nel suo film Scarlet Diva del 2000, esattamente come poi l'ha raccontata, cioè evidentemente lei l'aveva raccontata in un film. Questo 3 anni dopo, perché sì, lei parla del 1997. Sì. Molti si chiederanno come mai vengono fuori adesso, no? Come succede in molti casi. Forse ci vuole l'astuto, ci vuole la prima coraggiosa, sì, che denuncia e poi di lì. Ci vuole una scintilla e poi scoppia l'incendio. Infatti le ultime, addirittura Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie, sono state tirate in ballo, anzi hanno parlato, Rosanna Arquette e Mira Sorvino. Però diciamo che forse le attrici americane avevano qualche arma in più per difendersi, infatti hanno detto non abbiamo avuto paura, ci siamo rifiutate, non abbiamo accettato le sue avance, eccetera. Comunque si è andata a finire, la situazione è molto brutta. Tra l'altro oggi c'è stata un'altra polemica, perché una stilista americana molto famosa che si chiama Donna Karan, interpellata sull'argomento, sai, a margine di una sì, sfilata, ha detto una, no, cosa diciamo politicamente scorretta oppure semplicemente sbagliata. Sì, no? Lei ha detto: ma noi donne sappiamo cosa chiediamo e quando lo chiediamo, proponendoci in maniera troppo sensuale. Ecco, poi lei ovviamente ha detto: no, sono stata fraintesa, sono stata estrapolata, le mie affermazioni sono state estrapolate dal contesto, ma in rete era già partito il tantan per boicottare la sua marca di abbigliamento. Poi ha parlato molto, molto scandalizzato George Clooney, e anche Hillary Clinton si è detta scioccata da tutto quello che è successo. Lui è veramente un personaggio estremamente popolare negli Stati Uniti. E quindi è stato licenziato, dicevi, e adesso bisogna vedere se si aprirà un'inchiesta, immagino. Ovviamente si aprirà un'inchiesta, lui ha già ammesso qualcosa, si è detto contrito, si è detto dispiaciuto. Però certo è che immagino che non possa cadere tutto così, perché a questo punto potrebbe esserci anche una vicenda giudiziaria che lo riguarderà. Staremo a vedere. Grazie Marta Cagnola. Grazie a te. Ciao Marta. Oh, e adesso stavo guardando anche questo messaggio mentre parlavamo con Marta Cagnola, di questo ascoltatore. Veramente, non so, a volte se è una questione di un bicchiere per pasto o qualcuno che ne prende qualcuno di troppo. Dice a me, a proposito del rapporto del dossier di Terre des Hommes, dice a me: sconvolge, il 40% di bambini e ragazzi maschi vuol dire che ci sono tanti pedofili con indole omosessuale. Cioè, questo rapporto di Terre des Hommes, l'avete sentito, parla di questo record di violenze sessuali sui minori, in particolare le bambine, che sono il 60%. Quindi questo ascoltatore non è che dice: cavolo, sono veramente dei dati terribili in un paese come il nostro, neanche fosse un paese del terzo mondo, no? Dove c'è tanta violenza sui minori, bambine in particolare, ma anche bambini. No, sconvolge il 40% che riguarda i maschietti, perché dice: ci sono anche dei pedofili, come se i pedofili invece con tendenze eterosessuali fossero meglio. Io a volte non so veramente cosa pensare. Comunque, per fortuna sono una minoranza quelle che fanno queste osservazioni. A volte c'è da ridere per non piangere, e direi che ci possiamo lasciare per poco. Poi alle 22 vi ricordo quali sono i fatti principali di oggi.